Buonasera, benvenuti a tutti quanti. Porto i saluti dell'assessore Tomasini, che è il presidente di questa biblioteca. Vi ringrazio perché anche questa volta la presentazione di un libro di Ettore Frangipane raccoglie numerose persone. Siamo ormai arrivati alla puntata numero 3 di Bolzano Scomparsa e ci saranno anche altre novità, perché mi pare di capire che bolle in pentola qualcosa. E ringrazio chiaramente Ettore Frangipane perché da sempre, ecco, chiede anche a questa biblioteca, viene ospitato da questa biblioteca e ci porta le sue novità, sempre curiose e sempre stimolanti. Questa settimana avremo un doppio appuntamento, questa sera appunto la presentazione di Bolzano Scomparsa 3 e invece giovedì sarà una serata dedicata alla poesia con il libro Ali Bianche di Farfalle. Abbiamo messo l'invito sulle sedie, lo trovate, alle 18, l'autrice è Maria Rita Di Pasquale. Poi vorrei fare due appelli. Il primo è se conoscete qualcuno che scrive romanzi, racconti, anche brevi, la sede Rai di Bolzano sta facendo un concorso, ha indetto un concorso, La Giara, i cui termini sono presenti nel sito internet, basta cliccare appunto Rai e il concorso è appunto intitolato La Giara. E il secondo invito invece è per il Festival delle Resistenze. In aprile anche quest'anno verrà realizzato il Festival delle Resistenze dal 25 aprile al 1 maggio e stiamo cercando dei testimoni, delle persone che ci possano dare delle informazioni o siano disposte anche così a lasciarci il loro ricordo, a trascriverlo, ad aiutarci a ricostruire alcuni episodi della vita legata soprattutto al quartiere Europa Novacella, quindi per intenderci via Milano, via Torino, piazza Matteotti, tutta quella zona, ecco, che è stato praticamente il nuovo quartiere, il quartiere Dux. Abbiamo bisogno di materiale, se ce lo date magari in copia o comunque semplicemente anche solo di piccole notizie di vita quotidiana, di informazioni per ricostruire un puzzle che vorremmo realizzare in occasione, pubblicizzare in occasione del Festival appunto delle Resistenze. Se conoscete qualcuno, se siete interessati e disposti, l'appuntamento è lunedì 12 dicembre dalle ore 16.30 alle 18 al bar Romagnolo. Ecco, chi è interessato è disponibile se si vuole recare. Anche questo è un invito che abbiamo così stampato e messo sulle sedie. Per il bar Romagnolo è il bar in piazza Matteotti. Sì. Quindi se conoscete qualcuno, siete disponibili. Questo avviene lunedì 12 dicembre alle ore 18. Bene, cedo la parola subito all'autore, che ringrazio ancora e vi auguro una buona serata. A presto, arrivederci. Dunque, io ringrazio voi tutti per cominciare. Ringrazio anche la signora Mara D'Aroiz che è venuta a leggerci alcuni brani del libro che ho scritto. Segnalo che ci sono due posti liberi davanti, se qualcuno vuole prendere posto. No, va bene così. D'accordo. Sì, questo è il terzo volume della serie Bolzano Scomparsa, che ho iniziato 2 anni fa e ogni anno ne scrivo uno. Raccogliendo gli articoli che di domenica in domenica pubblico sull'Alto Adige, prima poi sul Corriere dell'Alto Adige, adesso nuovamente sull'Alto Adige, articoli nei quali racconto le storie della Bolzano trascorsa. Tra parentesi vi ricordo anche che ho un sito mio, ne ho due, ma c'è uno in particolare, bolzano-scomparsa, nel quale io raccolgo tutto il materiale. Propongo tutto il materiale che ho raccolto e che via via vado raccogliendo leggendo vecchi giornali. Ho completato tutte le cronache di Bolzano dal 1900 al 1950, giornali asburgici di Savoia, del fascismo, del nazismo, della Repubblica, e sono qualcosa come 15.000 notizie naturalmente espresse in sintesi e 500 fotografie circa. Adesso ho incominciato a ritroso, cioè incomincio dal 1850, fatto il 51, fatto il 52, adesso ho iniziato il 53 quest'oggi, e vado avanti così raccogliendo le notizie del passato che poi scrivo sul giornale e raccolgo nei libri che propongo alla vostra attenzione. Incominciamo quindi rapidamente con Bolzano scomparso, dico rapidamente anche perché non voglio abusare troppo della vostra pazienza. Io purtroppo sono uno che è portato a raccontare molto, un affabulatore si dice, per me potrei andare avanti anche 2 ore, ma capisco che non è il caso, anche perché è quasi l'ora, si avvicina l'ora di cena, l'ora dell'aperitivo. Bene. Avrò forse qualche problema nell'esposizione delle immagini perché mi sono trovato in una situazione un po' diversa. Se portavo il mio computer la cosa era risolta, sono stato un po' pigro, ho detto non voglio portare pesi. Ringrazio l'amico Ezio che è venuto a trovarmi. Anzi no, è Franco, ti vedo male perché è buio. Mio ex caporedattore. Bene, entriamo subito nel cuore del tema. Questa è la copertina, voi avrete riconosciuto senz'altro qua, vediamo se riesco a puntare, ecco, il Museo Civico, la vecchia sede della Cassa di Risparmio che negli anni 30 è stata rifatta in stile razionalista, come voi ben sapete. Questi qua sono l'imperatore Carlo e l'imperatrice Zita, che sono venuti nel 1917 a Bolzano. Francesco Giuseppe era morto nel 1916, questo è un fotomontaggio, neanche tanto ben riuscito. Notate qua la presenza la presenza dei binari del tram. Vediamo di passare adesso alla prossima fotografia. Dunque, questo per parlarvi del monumento a Re Laurino, così è stato definito, all'origine era una fontana, che è stata costruita in un'epoca molto particolare, dico particolare perché era un'epoca di forti istanze nazionalistiche da parte del gruppo etnico tedesco, e, diciamo sul finire dell'Ottocento e nel caso specifico sul lungo Talvera. Sul lungo Talvera, su quello che è definita la Wassermauer degli amici di lingua tedesca, che è stato poi spostato, questa fontana monumento è stata spostata, portata via da Bolzano addirittura, perché ritenuta negativamente, nel senso che è stato costruito questo monumento in atto di, diciamolo pure, di dispregio nei confronti della presenza italiana o quantomeno dell'italianità. Questa è una riaffermazione della tedeschità, della germanicità di questa zona, del Sud Tirolo come lo concepiamo noi oggi, perché all'epoca il Sud Tirolo era la provincia di Trento naturalmente. La giunta comunale di Bolzano era una giunta conservatrice, nazionalista e liberale, faceva capo al sindaco, al borgomastro Julius Peratoner, che era, diciamolo pure insomma, che era piuttosto anti-italiano. Vedevano allora i sudtirolesi con molta preoccupazione l'avanzata dell'elemento di lingua italiana da sud. Da notare che questo elemento di lingua italiana erano i trentini, che erano a loro volta dei tirolesi, ma non erano molto ben visti. Ecco, si costruì questo monumento che aveva la funzione, vedete nell'immagine, di dimostrare come la germanicità prevale sulla italianità. Nel caso specifico Re Laurino, bisogna ricordarlo, era un re ladino. La favola, la leggenda del Giardino delle Rose, del Rosengarten, sicuramente la conoscete, e questo monumento riaffermava appunto la violenza, la forza, la prevalenza del gruppo tedesco. Questo era Alarico, re dei Goti, sull'elemento locale, il re dei nani. I nani erano piccoli di statura perché i ladini, erano i retoromani, erano più piccoli degli invasori goti. E la cosa non piacque naturalmente al momento fascista. Il senatore Ettore Tolomei, ecco come si è espresso al riguardo negli anni 20. Dai giardini lungo Talvera a Bolzano sparisca quell'altra goffa interminabile figurazione del guerriero tedesco in atto di calpestare il piccolo popolo latino delle montagne. Il guerriero tedesco, chino, in atto di schiacciare il re Laurino, non vuol dire che questo. La Germania grande sopra di noi, piccola gente vile. E così il monumento in epoca fascista fu trasferito a Rovereto, nel Museo della Guerra di Rovereto, ed è tornato adesso nel secondo dopoguerra, curiosamente, questa raffigurazione simbolica dove è stata localizzata adesso? È stata localizzata all'interno dei palazzi della provincia. E se vogliamo dare un senso a questo ritorno proprio lì, direi che non è stato stato molto opportuna questa presenza, no? E il centro del potere, il potere in mano al gruppo etico tedesco. D'altro canto è un monumento che si lascia vedere, è grazioso, carino, diciamolo pure, e quindi teniamocelo là, che la sua bella figura lo fa. Tra parentesi, questi signori a destra e a sinistra, quel signore col cappello in testa e quella bella signora sulla sinistra, sono i miei genitori, e la cosa mi è cara. Andiamo avanti, vediamo la prossima immagine. Questa piazza voi facilmente non la riconoscerete. La riconoscete? Vabbè, allora ho sbagliato tutto. Però qua c'è qualcosa che manca, qualcosa che adesso c'è. Il portico. Avete presente? Questa è piazza del municipio, che all'epoca si chiamava piazza Trinità, perché c'era una chiesetta dedicata alla Trinità. E il primo gennaio, qui siamo adesso su Bolzano che si espande, il primo gennaio del 1911 il comune di Dolicivillè confluì in quello di Bolzano e nacque il comune di Bolzano allargato. Vediamo di andare avanti anziché indietro. Ecco, quindi fu costruito questo arco che consentì un contatto immediato e più facile tra il comune di Bolzano e quello per l'appunto di Dolicivillè. Intanto, questo è un altro capitolo che è interessante, e ve lo passo via velocemente senza letture. E questo qua è il ponte Talvera, come era nell'Ottocento, era un ponte di legno, come vedete qui in fondo. Ma voi vedete spostarsi la freccetta? Ecco, quindi posso fare a meno del raggio laser. Qui c'era un parco, che era il parco di Gries, qui hanno costruito nel 1917, hanno iniziato a costruire il monumento ai Kaiser Jäger, che poi non è stato ultimato, è stato abbattuto, e vi hanno costruito il monumento alla vittoria. Ponti di Bolzano, di legno, questo è il ponte, nel 1900 si costruì il ponte Talvera, la Talverbrück. Questo è un momento della costruzione, che fu chiamato Ponte Claudio in epoca fascista, e questo è un altro momento interessante, è il momento del fascista dell'allargamento di Bolzano, del voler dare a Bolzano una dimensione italiana. Voler fare di Bolzano città prevalentemente tedesca, una città che fosse prevalentemente se non totalmente italiana. Donde Piccone Demolitore, leggiamo qualche cosa a riguardo. Innsbruck si rallegra dell'espandersi di Bolzano, in quanto questa, la città tedesca più a sud del Land, ne è chiamata a salvaguardare il carattere nazionale, le tradizioni tedesche, e ad essere un bastione a garanzia della tedeschità al confine linguistico. Con l'auspicio che Bolzano diventi un insuperabile avamposto per la difesa della nazione tedesca e la resistenza al nemico, il dottor Erler vuotò il suo bicchiere. Questo avvenne quando si unificarono i due comuni, quindi anche questo allargamento di Bolzano fu visto appunto come un rafforzamento della città tedesca contro la possibile invasione italiana. C'è qualcosa sugli amatori delle cose vecchie e ammuffite? Ecco. È un altro, è un momento diverso, anche questo è interessante, siamo alla provincia di Bolzano del 2 giugno 1928, giornale fascista, e sentiamo. Gli amatori delle cose vecchie, ammuffite, tremeranno. Il piccone demolitore e risanatore costituisce per molta gente un arnese di profanazione, ma non bisogna dimenticare che oggi il mondo, le nazioni, le città, gli uomini non vivono di debolezze sentimentali. Chi non cammina muore, e le città che campano soltanto di tradizione e nel culto della tradizione creano il vuoto intorno a loro e corrono a occhi chiusi verso la rovina. Bolzano è graziosa, civettuola, ma non bisogna esagerare e generalizzare. Vi sono vie e piazze che rappresentano il non plus ultra del cattivo gusto e della mediocrità architettonica. Oggi è salutare l'opera del piccone. All'epoca si pensò addirittura di abbattere via Museo e via dei Portici è una strada molto ma molto degradata, nella quale tra l'altro allineava la tubercolosi. E per fortuna non lo si è fatto e sono stati recuperati i portici, anche le bombe si sono dimostrate nel secondo dopoguerra abbastanza generose con i portici. Questa che vedete qua che cos'è? Questo è l'odierno Corso Libertà. Vedete, nel 1925 furono unificati i comuni di Bolzano e di Griese, si fece questa lunga strada, il piccone demolitore demolì lì dove adesso voi vedete le case che chiudevano verso Piazza Griese, la quale Piazza Griese non è come oggi aperta a Corso Libertà. E era tutta chiusa, era un rettangolo perfetto, le case furono abbattute, fu costruita questa strada, qui si era costruita Piazza Mazzini, e questo è Corso Libertà, che fu chiamato all'epoca Corso 9 Maggio. Perché 9 Maggio? Perché il 9 Maggio era la data della proclamazione dell'impero da parte di Mussolini. È un momento in cui siamo sempre nella fase della costruzione di una Bolzano nuova, si vanno a visitare i lavori in corso per la costruzione delle acciaierie, e questo è il principe Umberto di Savoia, figlio di Vittorio Emanuele III. E qui siamo in un altro settore, in un altro momento adesso, è il momento dell'arrivo della luce. Dunque, quando arrivò la luce a Bolzano, adesso ve lo dico, la luce a Bolzano arrivò sul finire del secolo scorso, e le prime prove di luce le si fecero nel 1898 in piazza Walter, esattamente l'8 agosto, e c'è al proposito uno scritto apparso sulla Bozner Zeitung che adesso Mara vi leggerà. Al crepuscolo le strade della nostra città furono irradiate da un'illuminazione del tutto inconsueta, e abbiamo visto nemici dell'introduzione della luce elettrica ammirare con volto entusiasta le lunghe teorie di luci che abbellivano le strade sui due lati. Fu soprattutto in piazza Walter, nella quale l'intensità della luce risaltava ancor di più, che si ebbe modo di constatare con autentica gioia che l'illuminazione elettrica era, da sola, in condizione di donare a questo piacevole spazio cittadino lo sfarzo di una grande città. Questo è, lo avete riconosciuto, è l'Hotel Grifone, Hotel Greif. Le prime giornate di luce a Bolzano, prima c'era stata l'illuminazione a gas, prima ancora quella a olio. E il quale Greif, per la verità, è stato insieme al Bristol e al Laurin, che erano tutti e tre di proprietà della famiglia Staffler, e sono stati precursori dell'arrivo della luce, perché disponevano di un impianto proprio. Andava a carbone, vapore, turbine che giravano. Questo impianto si trovava all'inizio di via Conciapelli, e Bolzano si trovò in questa curiosa situazione, per cui la città era alimentata dall'azienda elettrica che raccoglieva, che insieme a Merano raccoglieva l'energia prodotta dalla centrale di Tell all'inizio della Val Venosta, ma il complesso alberghiero degli Staffler ebbe la luce elettrica prima, e la ebbe anche lungo tutto l'arco della guerra, fino al 46-47 loro avevano una loro luce autonoma. Andiamo alla prossima immagine, altra situazione. Ecco, questa è l'orchestra della RAI di Bolzano, dell'EIAR di Bolzano. Qui siamo, una delle tante storie che vi racconto, del 1928. Qui ci sono dei personaggi, un personaggio che forse qualcuno di voi riconoscerà. Questo è il maestro Mario Sette. Se lo ricorda? Che fu anche insegnante al conservatorio. Questo è invece Carlo Maria Giulini, che qua suona il violino, è il noto direttore d'orchestra, scomparso non tanti anni fa, di livello mondiale. Ecco, Bolzano ebbe una stazione radio che iniziò a funzionare per l'appunto nel 1928. C'è da sottolineare che fu inaugurata questa stazione quando il re Vittorio Emanuele III venne a Bolzano per inaugurare il monumento alla vittoria, e allora si fece una telecronaca di quell'avvenimento, una radiocronaca di quell'avvenimento. Mara, prego. Allora, nel 1936 la sede viene trasferita nel nuovo edificio che voi vedete qua in via Cassa del Risparmio. Sentiamo cosa scrisse la stampa dell'epoca. Stamani, in Alto Adige, nel giorno primo dell'impero fascista, si è inaugurata un'altra significativa opera, pur essa voluta dal Duce. Ed è veramente simbolico che l'aumento di potenza della stazione radiotrasmittente di Bolzano si compia mentre tutta l'Italia ritrova finalmente il tono superbo della voce dell'antica Roma imperiale. La quale Roma imperiale non aveva la radio, però i discorsi, le cose che si scrivevano erano queste. E questo è un altro momento interessante. Non so se riuscite, questa fotografia l'ho tratta da una rivista Attesi Augusta che si stampava sul finire degli anni 30, all'inizio degli anni 40, quindi la vedete un po' sgranata. Non so se riconoscete questo porticato. Questa è la scuola Dante. È stata costruita, realizzata come scuola Elisabeth Schule, Kaiserin Elisabeth Schule, nel primo Novecento, e poi fu trasformata in scuola Regina Elena quando fu occupata dai fascisti, che vennero qui a Bolzano con le loro squadre, ne fecero uscire la scolaresca di lingua tedesca che vi lavorava, la trasferirono in quelle che adesso sono le scuole Aufschneider, dove si trovava invece la scolaresca di lingua italiana. Ma siccome la scuola Regina Elena, diciamo, Kaiserin Elisabeth, era più bella di quella delle Aufschneider, che allora non si chiamavano così, i fascisti ritennero opportuno trasferirli qua. Lo fecero con un atto di violenza e così fu. Ho da notare che poco dopo questi stessi gruppi di fascisti che imperversavano in città e che nessuno riuscì a fermare, neanche i carabinieri, l'esercito, tanti erano, andarono al municipio, cacciarono il sindaco e presero possesso del municipio di Bolzano. Da allora il borgomastro Julius Peratoner non poté più mettere piede nel nella struttura, nel municipio. Sentiamo adesso cosa ci legge a proposito di questa venuta fascista Mara D'Aroit. Ieri, domenica, nuove violenze fasciste a Bolzano. Gli squadristi occupano la Elizabeth Schule, che intendono concedere agli scolari e studenti italiani delle elementari e medie inferiori. L'ammassamento dei fascisti, che in parte indossavano elmi neri, in parte i ben noti Fez, è avvenuto in formazioni militarmente inquadrate, verso le 9, davanti all'edificio scolastico della Elizabeth Schule, dove poi si sono scaricate le cibarie per i reparti fascisti. A varie finestre della scuola si sono esposte bandiere del fascio e tricolori, e sopra l'ingresso è stata esposta la scritta «Scuola Regina Elena». Completata l'occupazione della scuola, i fascisti sono marciati in formazioni chiuse attraverso la città. E la scuola restò in effetti Regina Elena. Adesso si chiama Dante Alighieri perché non abbiamo più regine. Questo è il liceo classico di Bolzano, che nella sua prima sede dopo i bombardamenti del 1944. Ve l'ho voluto proporre per farvi vedere come era, in che condizioni si trovava. Qui ho fatto io personalmente il mio liceo. Andiamo avanti e vediamo quest'altro edificio. Che cos'è questo edificio? Queste sono le Marcelline, viste dall'altra parte est. L'Istituto delle Marcelline ha sede dove aveva sede in epoca asburgica il Kurhaus del centro di cura e soggiorno di Gries. Vedete qua, notate, qua c'è seduto un ufficiale austro-ungarico con il suo bravo kepi. Andiamo un pochettino più avanti, vediamo la fotografia successiva. Di questo Kurhaus si fece un istituto, per l'appunto quello delle Marcelline, ma prima ancora fu adibito sempre a casino, lo si disse allora, e questa era la terminologia ufficiale, a casino di cura, e qua si svolgevano delle feste, dei trattenimenti eccetera. Questa è una festa della neve degli anni 30, e questo signore qua, questo è lo Sciclub che ha organizzato questa festa, questo signore qua è l'onorevole Luciano Miori, che era un esponente bolzanino della Camera delle Corporazioni, fascista logicamente. E questo invece è il momento dell'inaugurazione della Scuola delle Marcelline, quando da casino di cure divenne Scuola delle Marcelline, ed ecco questo personaggio che voi non riconoscerete, ma adesso vi dico che ho notato i piedi lunghi. Questa è Maria José, principessa di Piemonte, consorte di Umberto I, Umberto II e regina, come sapete, per brevissimo tempo nel maggio dopo che Vito Emanuele III diede le sue dimissioni. Questo è un attimo della cerimonia inaugurale. Ecco, adesso leggiamo. Io vado un po' di palo in frasca, ma nel libro tutte queste cose hanno una loro sequenza logica. Adesso sembra che io vada di palo in frasca, in effetti non è così. Comunque, noi traiamo spunto dalla susseguirsi delle immagini che sono comunque interessanti e curiosi, penso io, e adesso vi spiego il perché di questa immagine. Dunque, durante la guerra vigeva l'oscuramento, i più anziani tra di voi lo ricorderanno, si spegnevano tutte le luci, luce in città non esisteva assolutamente, finestre spente, vetrine non se ne parla neanche, le macchine dovevano girare con i paraurti dipinti di bianco per essere più visibili, e il raggio di luce che facevano era una sola fessura in una copertura del faro, quindi ci si vedeva proprio niente praticamente. Però il giornale fascista, la provincia di Bolzano, non doveva deprimere al riguardo la popolazione, e raccontò invece, nell'articolo che adesso Mara vi proporrà, raccontò di come fosse bello e utile l'idea e il principio dell'oscuramento. oscuramento e salute. Andare a letto presto. Un poco di noia conseguente alla nostra ridotta capacità di movimento e di divertimento dovuta all'oscuramento riconduce il nostro consumo di energia nervosa entro limiti più ristretti ed onesti, con un vantaggio individuale e sociale del quale risente lo stesso spirito pubblico, che diventa più pacato e sobrio, meno avido di emozioni e più adatto alla sopportazione, più virile quindi, e perciò stesso meglio adatto al clima duro del tempo di guerra. Alcune circostanze di carattere accessorio, ma sempre legate all'oscuramento, hanno un valore sanitario, poiché il restare in casa di sera è tanto più facile quando le condizioni climatiche non sono favorevoli, molti malanni di stagione sono evitati da questa più facile clausura, primi fra tutti quelli di carattere più o meno blando, ma sicuramente legati al doppio fattore climatico ed infettivo, come sono i raffreddori, le malattie reumatiche e le cosiddette influenze. Come vedete, l'oscuramento era una panacea. Grazie all'oscuramento, alla paura dei bombardamenti, si viveva meglio, così sostengono. Questa fotografia si rifà ad un momento particolare. Questi sono degli optanti per la Germania che partono da Luserna. Non parlo di optanti in questo mio libro. Questo personaggio, voglio fare un salto avanti, ecco che siamo ai bombardamenti di Bolzano. Vedete Bolzano qui sotto, questo è Bolzano, questa è via dei Portici, questa è via Streiter, questa è via Argentieri, esatto, Argentieri, la Talvara, il Virgolo è questo, e questi sono tre bombardieri B-19, i bombardieri che allora sorvolavano americano, che americani che sorvolavano Bolzano e scaricavano bombe. Bolzano fu bombardata in tutto 24 volte, fu distrutto raso al suolo una buona percentuale, esattamente 245 edifici di Bolzano furono rasi al suolo, più di 400 furono seriamente danneggiati, altri ancora 1000 passa furono danneggiati leggermente. In totale Bolzano risentì dei bombardamenti, le case di Bolzano risentirono dei bombardamenti nella proporzione del 62%, il che è piuttosto tanto. Questi erano quadrimotori che volavano da lontano, pensate che decolavano addirittura, immagini successive, dalle Puglie per arrivare su Bolzano a lasciare le loro bombe e tornarsene nelle Puglie. Siccome erano aerei che non potevano avere il supporto della caccia e si esponevano quindi alla caccia germanica nel caso specifico, allora avevano a bordo tutto un fiorire di mitragliatrici a poppa, a prua, sotto, sopra, ed erano perciò chiamate fortezze volanti, cioè erano autosufficienti sul piano della difesa. Ecco, il personaggio che ho fatto vedere prima è il colonnello Jean A. Baierli, che comandò il bombardamento di Bolzano nel giorno di Natale del 1943. Un bombardamento che ricordo molto bene perché io lo vissi in parte, nel senso che ero al Colle, ma bombardarono anche al Colle. Avevo 9 anni quel giorno, compiuti il giorno prima, esattamente le vigilia di Natale. Ricordo benissimo il frastuono, il rumore, la paura, la gente che pregava ad alta voce, perché poi è una cosa curiosa che da ragazzino avevo notato, che la gente recitava le preghiere in tedesco, perché i proprietari dell'albergo erano tedeschi, non parlando ma gridando. E ho pensato, questi gridano per non sentire il rumore delle bombe, e in effetti forse era proprio così. Il prete francescano che saliva tutte le domeniche, nel giorno di Natale in particolare anche, al Colle per recitare, per leggere messa, ci impartì la soluzione in articulo mortis, e non morimmo. E quando uscì incontrai questo signore, che nel frattempo era stato preso prigioniero dai contadini del luogo, e che era il comandante del, come avevo detto forse prima, il comandante di quel bombardamento. quel bombardamento che fu effettuato da 40 fortezze volanti partite dalle Puglie, per l'appunto, che scaricarono 300 bombe. E il suo aereo fu colpito tra Ora e Bolzano, 4 morirono sul colpo, l'equipaggio era formato da 10 uomini di ogni fortezza volante B-19, c'erano anche B-17, erano superati ormai, erano precedenti, e lui prese terra con un altro aviatore proprio nei pressi del colle, proprio al colle. Lo presero, lo portarono all'albergo Klaus, dove io mi trovavo in quel momento, e io vidi questo signore seduto nella stube con un occhio blu molto elegante, una cosa che mi colpì moltissimo, e lui, mi ricordo, chiamò a sé questi 3-4 ragazzini che eravamo noi curiosi, che lo stavano a guardare come fosse un alieno, e ci fece vedere le fotografie dei suoi figli. È stato un momento un po' toccante. E lo portarono via, lo consegnarono alla gendarmeria germanica. Poi mi incuriosì io dal fatto, dove è andato a finire questo signore, mi chiesi, anche perché seppi poi che fu condannato a morte il comandante della Gestapo e delle SS, che aveva la sua sede al corpo d'armata, per aver ordinato la fucilazione di 7 prigionieri aviatori tra inglesi e americani, 2 americani e gli altri 5 inglesi, e mi chiesi, ma non sarà mica morto fucilato dai tedeschi? No, seppi attraverso internet, adesso non ve la sto a raccontare perché mi misi in contatto con suo figlio, che lo trasportarono in Germania e tornò vivo a casa dopo la guerra. Questo Max Littmann, Augustus Seifert, mi sono sbagliato forse prima del nome, del quale vi ho detto, fu per questa fucilazione di prigionieri condannato a morte dalla corte alleata di Caserta e fucilato, anzi impiccato a Livorno. Questo è un altro momento che ha vissuto Bolzano, ed è quello, l'Alto Adige in particolare, ed è quello del ritorno degli ebrei a casa loro. Uscite dai campi di concentramento, questi migliaia e migliaia di ebrei si incamminarono verso il Mediterraneo alla ricerca della terra promessa per andare in Israele, e passavano attraverso il confine nostro, anche a Resia, in Valle Aurina, a Brennero. Questa è la nave Exodus, della quale forse voi avete sentito. E io ricordo in particolare 2 ebrei, mia madre era germanica, che vennero a trovarci, erano 2 della cittadina di mia madre, mi ricordo che erano magrissimi, lui e lei, avevano dei numeri stampati, tatuati su un avambraccio, e loro non andavano in Israele, loro sarebbero andati invece presso i loro amici negli Stati Uniti, e mi ricordo che quando iniziarono a raccontare, mia madre mi fece uscire di stanza. Ecco, vi racconto adesso un episodio, ve lo legge Mara, del passaggio di questi ebrei, nel caso specifico al valico di Resia. Questo è l'Alto Adige che scrive, il giornale Alto Adige, e siamo al 3 luglio del 1946, sì. Il tentativo era fallito, ed allora qualcosa di nuovo si è verificato al confine. Gli 80 non erano entrati in Italia, ma non erano nemmeno rientrati in Austria. Rintracciati di là della frontiera, ricacciati di là della frontiera, essi si sono fermati tra le 2 sbarre, nella zona neutra, e non si sono più mossi. Per la polizia appartenevano a un altro mondo, anche per gli austriaci. A 20 metri più in là, essi appartenevano a un altro mondo. E così questi ebrei restarono lì a lungo, e il giornalista, l'inviato dell'Alto Adige, che si chiamava Sofisti, prosegue così il suo pezzo. Si rifugiarono in una casetta, in una casotta dell'Automobile Club, dismessa, Ecco il brano successivo, A terra lungo le pareti. Ce l'hai? A terra, lungo le pareti rosicchiate dai topi, riposavano alcune donne sopra giacigli improvvisati con rami d'abete. Una vecchia tremava. Freddo? Chiesi. E non c'era da meravigliarsi, io stesso tremavo. Febbre. E fu una risposta buttata lì, come un insulto alla curiosità pettegola e indifferente. Un logoro soprabito ricopriva la donna fino a metà gamba. Nel gonfiore dei piedi si contavano i chilometri che aveva superato. Palestina. La meta vale i piedi gonfi e la febbre. Ci sono tanti di queste storie. Questo è un momento successivo, riconoscete? La ricostruzione del Duomo di Bolzano. Guardate un po', vedete queste case tutto attorno come sono. Qua dietro c'è la chiesa dei Domenicani distrutta, qua c'è credo il circolo ufficiale distrutto. Andiamo avanti. Ecco qua donne impiegate, donne che lavorano. Questa per la verità è una donna che lavora durante la prima guerra mondiale, fa la tranviera. Cosa avvenne? Come sapete non ci sono gli uomini, sono al fronte, devono lavorare le donne. Le donne prendono il loro posto, lo prendono bene, lavorano bene. Dopodiché tornano gli uomini. Tornano dalla guerra, tornano dalla prigionia e trovano i loro posti occupati e nascono delle situazioni assolutamente negative, insomma, perché queste donne avevano trovato una propria forma di riscatto, vorrei dire, cioè finalmente lavoravano, non stavano più a casa a fare soltanto, e poi guadagnavano anche qualche lira che potevano spendere per se stesse. Gli uomini naturalmente avevano alle loro spalle una famiglia da mantenere, quindi situazioni molto difficili che si sono prolungate per un bel po' di tempo. Vediamo un articolo adesso, questo qui non è quello che volevo proporvi, sì, è quello che incomincia così, ce ne sono tante signorine, questo è un articolo che non è poi tale, perché sono lettere scritte al giornale, all'Alto Adige, da uomini che cercano di riottenere i loro posti o comunque di lavorare, e donne che difendono per le loro necessità il posto che avevano ottenuto. Leggiamo. Ce ne sono tante, signorine, a cui l'ufficio serve solo come pretesto per andare a casa quando vogliono e per avere del denaro da spendere in dolciumi, profumi. Ma ce ne sono anche tante che sul lavoro d'ufficio consumano non solo i gomiti del vestito, frutto di sapienti economie non confessate, ma anche la salute, la gioventù, pur di aiutare i genitori o fratelli. Si fa presto a dire a un direttore o a un capo ufficio che segnali quelle che possono essere sostituite perché non ne hanno bisogno. Ma chi le conosce le nostre tragedie familiari? Chissà cosa si nasconde molte volte dietro una apparente agiatezza. Questa naturalmente è una lettera scritta da una donna, firmata GM. Andiamo avanti. Questi sono i portici che voi riconoscete di sicuro, portici un po' vecchiotti come vedete, siamo in un'altra dimensione adesso, siamo davanti al cinema Eden. Dovete sapere che qui aveva sede il municipio via Portici 30 fino al 1908, quando fu trasferito dove si trova adesso. L'edificio del municipio fu in parte ristrutturato, utilizzato subito come sala cinematografica. La sala del consiglio comunale divenne il cinema Eden. Qui leggete Cinema Theater Cinematograph, non si legge tutto. Al cinema Eden lì si proiettarono i primi film muti, naturalmente fu la prima sala cinematografiche di Bolzano insieme al Weltbiograf, che invece aprì in via odierna via della Mostra. Il Weltbiograf fu trasferito in via della Posta e divenne Cinema Centrale. Oggi vi si trova l'UPIM, e l'Eden invece fu trasferito in via Leonardo da Vinci, dove si trova tuttora. Per cui il Cinema Eden è il più vecchio, è la più vecchia sala cinematografica di Bolzano. Vi faccio vedere un manifesto in epoca, nei primi anni 20, il famoso Quo Vadis muto, no? Erano film che venivano proiettati a gruppi di bobine, perché era tante le bobine da proiettare che non ci stavano in un solo proiettore. Vediamo le immagini successive. Il Trio Lescano, perché ve lo propongo? Siamo adesso in sede di balli, divertimenti, musica. Qua siamo sulla terrazza del Lido di Bolzano. La riconoscete? Forse l'avete già vista, questa terrazza. È del 1928, però bisognava stare attenti con la musica, perché questa musica, fino a che era musica nazionale, piaceva. La musica americana, musica da negri, come era definita allora, evidentemente non piaceva, e quindi oltretutto andava contro certi principi di purezza razziale che il fascismo voleva imporre. Per cui leggiamo Il Popolo d'Italia, ripreso dalla provincia di Bolzano, 30 marzo 1928. Ecco cosa scrivevano. Elefando ingiurioso. È nefando e ingiurioso per la tradizione e per la stirpe riporre in soffitta violini e mandolini per dare fiato a sassofoni e per cuotere timpani secondo barbare melodie che vivono soltanto per le effemeridi della moda. È stupido, ridicolo e antifascista andare in solluchero per le danze ombelicali di una mulatta o a correre come babbei ad ogni americanata che ci venga da oltreoceano. Da notare che quel ombelicali è scritto con due L, ombelicali. Forse le negre hanno due ombelichi, non lo so. Vi ho fatto vedere prima, mi sono espresso inappropriatamente, non si usa dire negre ma afroamericane oggi, no? Ecco, questa foto perché ve la propongo? Perché all'epoca c'era il Trio Lescano che improvvisamente scomparve, perché erano tre olandesi, questo non è un male, ma erano tre olandesi ebrei, e allora non le fecero più cantare. A casa, se non peggio, perché questo non lo so cosa sia venuto dopo. Qui siamo adesso parliamo di indumenti, di vestiti, di caldo. Il caldo e la moda, i calori estivi. E l'uomo adesso va in giro come crede, come vuole, sbracato, senza cravatta, senza cappello. Negli anni 30, negli anni 20 e 30 la cosa non era consentita. Come si faceva fronte al caldo? Col cappello, con la cravatta, con la camicia chiusa? Non c'era verso. Mara, leggiamo cosa scrive, è un po' lunghetto ma è divertente, la provincia di Bolzano nel 1931, 18 agosto, pensate. I calori estivi rimettono ogni anno sul tappeto uno scamiciato argomento. Se si possa o meno togliere la giacca nei luoghi pubblici senza offendere la morale, senza venire meno ai dettami dell'educazione. Le donne il problema del vestirsi all'uso estivo, o meglio, dello svestirsi, lo hanno, sia detto senza alcun doppio senso, risolto da un pezzo. Ma l'uomo quali risorse ha? Nessuna. Sorge quindi una domanda che è veramente il represso grido dell'anima, il grido dell'umanità maschile sofferente. Perché non andare senza giacca? Infatti, andare tutti, come si suol dire, in maniche di camicia, toglierebbe a questa toilette liberatrice ogni aspetto di inestetica volgarità, come taluni pedanti e sofistici la chiamano. Del resto, nessuno potrà mai dimostrare, ad esempio, che la moda delle signorine e delle signore che vanno senza calze non sia una vera e propria grossolanità. Eppure le donne così vogliono e così fanno, e così sia. Intanto noi uomini continuiamo a girare infagottati, incollettati, incravattati, ingiacchettati, senza avere il coraggio di liberarci a queste torture. Tutti sudiamo, tutti imprechiamo contro il caldo, tutti invochiamo utopici refrigeri, e nessuno ha il coraggio di adottare una foggia di vestire estiva più comoda. Alcuni audaci approfittano delle ombre della sera per andare in giro con la giacca sul braccio. Ma perché piuttosto di questo umiliante ripiego non si adatta e si proclama la moda per nulla immorale, anzi molto comoda, igienica ed economica, di presentarsi in pubblico senza giacca? Ecco, pensate che voi adesso, voi signori, dovreste essere tutti in giacca. No, secondo quelle istanze, da notare che la giacca me la sono messa perché me l'ha imposta mia moglie stasera, non vorrei mica presentarti senza giacca. Questi due signori, vedete, lei è chiaramente estiva la fotografia, no? Lei è braccia nude, eccetera, eccetera, lui col cappello, la cravatta, la giacca, eccetera, eccetera, sono mio padre e mia madre, vedete? Rapidamente, Alto Tesini, c'è anche, ho dedicato dello spazio anche agli Alto Tesini in guerra. Questo qua è un certo Leitner che davanti ad un bombardiere durante la guerra d'Abissinia. Questo lo conoscerete forse di nome, sono nato alcuni di voi. Ugo Morini, il capitano Ugo Morini, il papà di Giorgio, dell'aiuto cardiologo Ugo Morini, che fece la guerra di Abissinia. Lui comandava un reparto di Ascari, come vedete qua, e finì prigioniero dei russi poi. Prese anche il tifo, petecchiale, finì con il Parkinson. Questo è un altro personaggio, per dirvi di cosa capitava allora. Questo è Gigi Colombo, non so se qualcuno di voi l'ha conosciuto, è morto poche settimane fa. Questo aveva 17 anni nel 1943 e lo stavano per impacchettare perché doveva andare ad arruolarsi con l'SS. Lui scappò e si presentò all'esercito repubblichino a Verona e fu arruolato nelle Brigate Nere. Mi raccontò un sacco di brutte cose, di brutte vicende che nel libro e che nel libro troverete. E aveva 17 anni, gli toccò fare la guerra contro i partigiani e contro gli sloveni, figurate quante ne ha viste. Qui siamo adesso in un momento un po' particolare, parliamo di fumo. Questa è un disegno di Zandomenichi che non c'entra praticamente con l'argomento, no, c'entra nel senso, non ha nulla di bolzanino, ecco, questo voglio dire, semplicemente per lasciare spazio al pezzo successivo. Il fumo, si è letto e lo dico anche qua, anche se non lo sapete, fa molto bene. All'epoca si diceva così, oltretutto il fumo ha il vantaggio che uccide i batteri della tubercolosi, per cui è un toccasana, e quindi fumate pure, ecco. Però la lettura adesso si rifà ad un altro momento curioso, i più anziani tra di noi l'hanno sicuramente vissuto, il momento dei raccatta cicche, ve le ricordate? Adesso vedete cicche dappertutto per la città, no? Una volta le cicche venivano raccolte religiosamente dai raccatta cicche, che le raccogliamo uno dopo l'altro, e facevano sigarette. Infatti sarebbero utili anche oggi. Sarebbero utili, no? Come sono nato per raccoglierli, esatto, hai ragione. Leggiamo l'Alto Adige. Si vedono girare? No. Ve la leggo, cos'è l'ultima, quindi cercate di sentire. Si vedono girare per le strade centrali camminando adagio, a capochino. Ogni tanto uno di loro si china e mette la mano in tasca. Alla sera, a giro finito, c'è da scommettere che avrà le tasche piene, mi pare. Ma poi, e qui sta il bello, si procede modernamente. Sapete come si fa? Dopo sbucciato dalla carta, il tabacco del mozzicone viene ammucchiato, mescolando le diverse fragranze. Entra in funzione una bottiglia di acqua ossigenata il tabacco viene trattato precisamente come le chiome femminili. Immerso nel bagno diventa più biondo e anche, per fortuna, sterilizzato. Si fa asciugare. Poi ne rifileranno delle deliziose sigarette, egiziane, russe, malesi, francesi, americane, turche. Qualche fumatore ingenuo le comprerà nelle ore piccole, persuaso di avere acquistato di contrabbando il frutto proibito. Esisteva la raccatta chic. Adesso andiamo via veloci perché abbiamo praticamente terminato. Perché vi faccio vedere questa fotografia qua? Notate un pochettino. Questa qua è la chiesetta della Madonna di Loreto. Questo è Ponte Loreto in legno, prima che costruissero Ponte Loreto in ferro che c'è adesso. Quindi una fotografia che risale prima della Prima Guerra Mondiale. Ve lo faccio vedere perché questa era la zona dei suicidi. A Bolzano erano frequentissimi i suicidi all'epoca, molto frequenti, o pistola o soprattutto chi non aveva la pistola un tuffo nel risarco. Ed è sintomatico e singolare e triste che spesso si uccidevano giovani donne rimaste incinte. Non osavano tornare a casa. Questa giovane donna è altra cosa, questa è Lyubov Dostoevskij. È la Dostoevskaja, anzi, perché è figlia di Dostoevskij Fyodor, Delitto e Castigo, che è venuta a morire a Bolzano. È venuta a morire ed è morta al Grisakov, che era gestito dal dottor Ressler, era tubercolotica. La ricoverò, anche se non avrebbe potuto, perché non era consentito, i tubercolotici dovevano entrare in struttura a parte, eccetera, eccetera, e lì, sola, perché non aveva nessuno, la Dostoevskaja, donna meravigliosa che tra l'altro dedicò la sua vita a suo padre, a scrivere i ricordi del padre, morì nel 1926. Nel cimitero di Bolzano c'è la sua tomba, quello che è rimasto della sua tomba, non so se l'avete visto. La parrocchiale di Gries? Lei fu sepolta a Gries e poi questo piccolo mausoleo, che poi è una tazza in porfido, realizzato dallo scultore Franz Ehrenhofer, fu trasportato al cimitero di via Claudia Augusta. Lo si trova tra tutte le tombe, nella zona delle tombe, andando oltre il porticato sulla destra, dove iniziano i loculi. Ecco, diciamo 30 metri prima dei loculi, praticamente ultima fila, c'è questa tomba, questo monumento tombale diverso dalle solite lastre con il nome qui riposa, eccetera, eccetera, e c'è scritto in italiano ed in caratteri cirillici in russo una dedica alla Dostoevskaja. Questo è un altro personaggio che sto andando veloce, che vi propongo, ed è Emilio Comici, il grande Emilio Comici, che morì precipitando, e vi dico, nel libro c'è scritto come, in Vallunga, una laterale della valle Gardena. È stato uno dei più grandi, all'epoca sicuramente il più grande scalatore, andava su in libero, come voi vedete qua, no? Sapete com'è morto? Andava in parete con una signorina, una demez, aveva lasciato a parte altri due, arrivarono in cima, attendevano che gli altri due arrivassero e non li vide. Allora lui, per cercare di individuare dove fossero, cosa fece? Si assicurò col suo cordino ad una roccia e si buttò nel vuoto per riuscire ad andare oltre una certa cengia che gli nascondeva la vista. Il cordino si spezzò. Pensate un po'. E il bello è questo, che un testimone dice che è precipitato sull'erba morbida, soffice, si è rialzato in piedi, è stato un attimo in piedi e poi è ricaduto ed era morto. Aveva preso con la testa un sasso, l'unico sasso che c'era più o meno in quel prato, Emilio Comici. Qualche parola ancora per dirvi della farmacia Aquila Nera, che è la più vecchia non è la più vecchia farmacia, è il più vecchio esercizio di Bolzano, ha 700 anni di vita, è stata fondata sotto i portici, che allora già esistevano, nel 1200 e qualcosa, da un farmacista che si era preso la laurea all'Università di Salamanca. E questo, così, ve lo ricordate il vecchio Bristol? Concludiamo qui praticamente. Pensate che delitto buttare giù, è sopravvissuto ai bombardamenti. Qui non c'è ancora il Laurin, vedete che non c'è ancora il Laurin, è sopravvissuto ai bombardamenti, però non era redditizio, non rendeva abbastanza ed è stato abbattuto da Bonstaffel nel caso specifico, che ne ha fatto un condominio, adesso ci trovo, ci sono uffici, una cosa assolutamente banale. Ecco, io ho concluso, vi do appuntamento. Vi ringrazio, però un attimo solo. Anzitutto voglio ringraziare anche a nome vostro Mara D'Aroit, che vi ha letto quei brani così, così bene, così sentitamente. Poi vi do appuntamento per il 12 di dicembre, quando presenterò qui la mia ultima opera, definiamola così, che è un libro di vignette sugli alpini, fatta in previsione, in attesa della Donata Nazionale degli Alpini del maggio prossimo, e vi racconterò un po' di cose gli alpini visti ironicamente, con nostalgia, malinconicamente, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, ancora il mio grazie e vi auguro una buona serata.